Buonasera a tutti, questa è la terza puntata di Uptown Rockers sulle frequenze di Railroad Radio Station, sempre sull'onda anomala, dalla Linin City, qui alla voce Drago DJ come al solito. Una puntata che dedicherò, non lo so, ora staremo a vedere dove mi porta il mio gusto musicale, ma intanto vi lascio sulle note dei Funkadelic. Beat You, questi erano i Funkadelic da Detroit, capitanati sempre dal grande maestro George Clinton. Questa era la prima formazione, il pezzo era del 1970 e possiamo ritrovare in questa canzone un certo rock psichedelico di quegli anni, ispirato molto a Jimi Hendrix, con degli assoli di chitarra distorti e un organo veramente influente. Ma adesso spostiamoci a Londra, dove vi vado a raccontare la storia della nascita di un genere, il genere Rare Groove. Questo termine fu coniato da alcuni giornalisti dopo che un DJ londinese, un certo Norman Jay, che conduceva una trasmissione radiofonica su Kiss FM, riproponendo vecchi pezzi di funk anni 70. Chiamò per primo la sua trasmissione The Original Rare Groove Show, ed è qui che nacque questo modo di intendere un tipo di musica ricercato nel passato. Ma è proprio da qui che volevo partire per parlare dell'acid jazz, sì, un genere che alla fine degli anni 80 si fece vivo in quel di Londra, grazie anche a un socio di Norman Jay, un certo Gil Peterson, che in quegli anni fondò un'etichetta scritturando molte band inglesi che, oltre a risuonare vecchi pezzi d'annata anni 70 di funk, soul e rhythm and blues, eseguivano anche dei pezzi propri. E tra questi una band di giapponesi direttamente da Tokyo, gli United Future Organization. We'll be right back. Unite Future Organization, e questa era Vinyl Junkie, una vera dipendenza da vinile, un termine da veri diggers. Questo pezzo usciva per la Brownswood di Gil Peterson, ma fu presto ristampata nel 1993 dalla Talking Load di Paul Martin. Restiamo ancora sulla Sea Jazz, visto che oggi sono stato influenzato da un mio amico DJ che mi è venuto a trovare e che è veramente un collezionista di rare groove di acid jazz. E andiamo con un altro pezzo della Talking Load, e sto parlando degli Urban Spaces con Listen, e subito dopo attacchiamo un pezzo al volo, così non vi sto a rompere le scatole con le mie parole, e vi farò sentire subito dopo gli Urban Spaces di MFSB da Philadelphia. Listen to the mother who is always nagging, a son to get up and do something with his life. Listen to the vows when you're marrying your wife. Listen to the scream of a mother giving birth. Listen to the sorrow of a mother earth. Listen to the beggar man begging in the street, please can you spare some change so I can get some food to eat. Listen to the plight of the homeless, and if you listen to the pessimist, everything's hopeless. Listen to your heart, listen to your soul, listen to your conscience, let it take control and justice. Listen, Urban Spaces, bellissima canzone rap contaminato dal jazz per questo gruppo composto da Dr. Slim, Mintos e DJ Renegades, un filone portato alla ribalta da gruppi come Gangstar, Young Disciple, Digable Planets, ma anche altre band storiche dell'acid jazz come i Galliano. Parliamo invece degli MFSB, sigla che sta per Mother, Father, Sister and Brother, gruppo di Filadelfia, uno dei gruppi pionieri del suono di Filadelfia, quel tipico sound portato a successo dai produttori Gamble e Nuff. Ma ricordiamo anche questa differenza rispetto al suono melodico di Gamble e Nuff. Qui troviamo una martellante sezione ritmica grazie a tre musicisti eccezionali, e sto parlando del chitarrista Norman Harris, del bassista Ronnie Becker e chiaramente di un potentissimo batterista Earl Young. Ma senza flosciarvi troppo con le mie chiacchiere, adesso ritorniamo ancora in Inghilterra, un paese che è sempre stato all'avanguardia nel far scoprire al mondo musicale nuove sonorità. Andiamo in casa Mowox, l'etichetta a cui fa capo James Lavelle, con un pezzo che già avete sentito prima nei sottofondi che metto durante lo speakeraggio, e sto parlando della mitica Funk Mob con la Doctoress. Questo è il penultimo pezzo e vi farò poi scoprire un pezzone italiano di dance music con cui concluderò questa terza puntata. Ricordatevi però che Uptown Rockers continua ancora per un'oretta con il super mixato composto direttamente da me, e vi ricordo anche che la musica che state ascoltando è tutta in formato vinile. Bene, e adesso la Doctoress, la Funk Mob. la Funk Mob su Mowox, l'etichetta che poi scoprì il californiano DJ Shadow e il nipponico DJ Crush. Ma prima di passare all'ultimo pezzo di questa terza puntata di Uptown Rockers, vi faccio un appunto. Mi sono dimenticato prima di dirvi l'anno delle due canzoni e forse anche un titolo. Per quanto riguarda gli Urban Spaces, la data era 1994, il pezzo, ricordo ancora, si chiamava Listen, mentre per i Mother, Father, Sister and Brothers il pezzo si intitolava Freddy's Dead, del 1973, e se non mi sbaglio era una cover di Curtis Mayfield, scritta appunto dal signor Mayfield, penso per la colonna sonora di Superfly. Ma passiamo all'ultimo pezzo. Come avevo annunciato prima, il pezzo è una song italiana. Sì, difatti in Italia si è sempre respirato un buon clima per la dance music, per la musica da discoteca. Non song anche su questo gruppo, i Black Machine, di cui ho in mano il doppio LP datato 1991. Il pezzo si intitola AUG e è veramente un rubacchiare a destra manca di breakbeat, da James Brown a Fred Wesley a Maceo Parker, ma anche tanti altri sample. Con questo è tutto per questa sera, vi ricordo sempre il nostro appuntamento settimanale del mercoledì sera con varie repliche, ma potete scaricarvi dalla rete la nostra puntata. Un saluto da Drago DJ, Uptown Rocker sulle frequenze di Railroad Radio Station, la street radio della Linin City. Express, how we be? American Express, hey. One, two, three, four. my style. DJ innovator when it comes to scrap. Howie T. Howie T.